3. La ricreazione. Attività 2. La giornata non è ancora finita. Le professoresse di matematica e di lettere sono gentili. Alexandra vuole parlare bene, ma è difficile. A ricreazione i compagni di classe giocano e ridono, ma non parlano con lei. Alexandra è molto triste. Va alla macchinetta delle merende, vuole una cioccolata calda.